natura mi ha partorito in un campo assai infinito. La pioggia e il sole mi hanno fatto crescere, poi con lievito di luppolo, due amici un poco strani, abbiamo fatto il bagno in acqua limpida. Sono Sita, bionda birra, sono sempre la più amata, la più bevuta al mondo, sono qui. Vi trasmetto la purezza, l'amicizia e giovinezza, emozioni più frizzanti vanno su. Birra sono, birra sarò sempre l'altro bionda, amico mio. Birra sono, birra viva in onda, tutta birra viva Dio. Sento che ti vibra il corpo, sento che ti piace tanto questa bella bionda, tira su. Sita, bionda birra, sono sempre la più amata, la più bevuta al mondo, sono qui. Vi trasmetto la purezza, l'amicizia e giovinezza, emozioni più frizzanti vanno su. Birra sono, birra sarò sempre l'altro bionda, amico mio. Birra sono, birra Dio. Sento che ti vibra il corpo, sento che ti piace tanto questa bella bionda, tira su. Birra sono, birra sarò sempre l'altro bionda, amico mio. Birra sono,